Buongiorno e benvenuti a Un giorno alla volta, il devozionale quotidiano sulla parola di Dio curato dalla Chiesa Logos a Firenze. Questa è la riflessione di oggi. Questo è Matteo capitolo 4, versetto 4. Ma egli rispose, sta scritto, non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che proviene dalla bocca di Dio. Quando penso a quei momenti difficili in cui sembra che tutto vada storto, ricordo quanto sia facile concentrarsi solo sulle necessità più urgenti. Penso che tutti ci siamo trovati proprio lì, di fronte a un bisogno immediato, qualcosa che sentiamo di dover risolvere immediatamente, in quell'istante. Ora immagina Gesù nel deserto, dopo 40 giorni di digiuno e Satana che appare tentandolo a trasformare le pietre in pane. Sembra logico, no? Aveva fame e trasformare le pietre in pane sarebbe stata una soluzione rapida. Ma la risposta di Gesù è così potente che ancora oggi ci insegna qualcosa di profondo. Non di pane soltanto vivrà l'uomo. Gesù stava dicendo che la nostra vita non dipende unicamente dalle soluzioni rapide o dal soddisfare i nostri bisogni immediati. C'è qualcosa di più profondo, qualcosa che davvero ci sostiene. La parola di Dio. Questo mi fa pensare a quanto spesso corriamo dietro a soluzioni immediate, dimenticando che ciò che veramente ci sostiene e ci dà vita è la connessione quotidiana con Dio attraverso la sua parola. Questo versetto di Matteo capitolo 4 è una citazione di Deuteronomio del capitolo 8, versetto 3, dove Mosè ricordava agli israeliti che durante il loro tempo nel deserto Dio non diede loro solo il manna per nutrirsi fisicamente, ma insegnò loro anche a dipendere da ogni parola che usciva dalla sua bocca. Interessante come Gesù scelga proprio questo passo durante la sua tentazione. Avrebbe potuto fare un miracolo e soddisfare la sua fame, ma preferisce ricordarci che il nostro vero bisogno è spirituale. Il contesto è fondamentale qui. Gesù si trovava in un momento di estrema vulnerabilità fisica, ma la sua dipendenza totale dalla parola di Dio ci mostra che la vita piena non si trova nel materiale, bensì nel mondo spirituale. Citando questo passo, Gesù afferma che la vera vita proviene dall'essere allineati alla volontà di Dio, così come è rivelata nella sua parola. È un invito a confidare in Dio al di là delle circostanze immediate. Ecco tre verità bibliche che possiamo estrarre da questo passo. Numero 1. Fai della parola di Dio la tua priorità. Prima di cercare soluzioni rapide, dedica tempo a immergerti nella parola di Dio. Lascia che i suoi insegnamenti guidino le tue decisioni, perché è in essi che troverai la vera vita. Numero 2. Confida nella provvidenza di Dio. Come Gesù, impara ad aspettare la provvidenza di Dio. Egli sa di cosa hai bisogno e te lo darà nel suo tempo perfetto. Evita scorciatoie che compromettano la tua fede, piuttosto confida che Dio provvederà. Numero 3. Rafforza la tua resistenza spirituale. Le tentazioni ci saranno sempre, ma la parola di Dio è la tua migliore difesa. Memorizza versetti che ti fortifichino e che ti fortificano nei momenti di prova e lascia che la verità di Dio ti guidi. Una riflessione. Matteo 4,4 ci invita a ricordare e riconsiderare su cosa fondiamo le nostre vite. Non si tratta solo di soddisfare i nostri bisogni fisici. Dobbiamo cercare il nutrimento spirituale che proviene dalla parola di Dio. Quest'anno proponiamoci di dipendere completamente da Dio, sapendo che ogni parola che esce dalla sua bocca è sufficiente per sostenerci in qualsiasi situazione. Che questa verità trasformi la tua vita quotidiana, portandoti a una relazione più profonda con Cristo. Preghiamo. Signore, insegnami a dipendere di più da te e dalla tua parola. Fa che non cerchi solo soluzioni rapide, ma che la mia vita sia centrata su di te, confidando che mi guiderai in ogni passo. Amen. Oggi leggiamo Genesi 4, Matteo 4 Esdra 4 e Atti 4. Grazie per essere stati con noi. Un giorno alla volta è una produzione liberamente tradotta e adattata in italiano. Se desideri approfondire, ricevere ulteriori risorse o metterti in contatto con noi, cercaci online come Chiesa Evangelica Logos. A domani.